24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Emergerebbe il volto della stanchezza, della rassegnazione. L'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. L'Italia sostiene che la grande sfida del semestre europeo non sia soltanto quella di elencare una serie di appuntamenti. La vera grande sfida è ritrovare l'anima dell'Europa. E c'è anche, lasciatemelo dire, una generazione nuova, che è la generazione Telemaco. La nostra generazione ha il dovere di meritare l'eredità. Noi non vediamo il grande frutto dei nostri padri come un dono dato per sempre, ma come una conquista da rinnovare giorno dopo giorno. C'è un'Italia che con coraggio e orgoglio offre la propria disponibilità per fare la propria parte. Vorrei segnalare che proprio in questa sala, durante la scorsa presidenza dell'Italia alla guida del semestre europeo, ci fu un paese a cui non fu concessa la flessibilità, fu concesso di violare i limiti. Quel paese era la Germania, con il processo di riforme che ha consentito alla Germania oggi di essere un paese che cresce. Abbiamo firmato tutti insieme, i nostri predecessori, un patto che si chiama patto di stabilità e di crescita. C'è la stabilità, ma c'è anche la crescita. E la richiesta di avere la crescita come elemento fondamentale della politica economica europea non la fa un paese, serve all'Europa, non serve all'Italia. Senza crescita l'Europa non ha futuro, non è un singolo paese avere un problema. Dunque Renzi ha detto che abbiamo firmato un patto di stabilità e di crescita. Crescita che serve non solo all'Italia ma anche all'Europa. Il professor Giuseppe Guarino ha studiato nel dettaglio l'esegesi dei trattati di Maastricht e l'origine misteriosa del patto di stabilità. Origine misteriosa. Molti ascoltatori ci hanno scritto e telefonato per capire meglio la tesi del professor Giuseppe Guarino. Eccola. Professor Guarino, inizia il semestre europeo a guida italiana. È importante? Francamente non credo che abbia l'importanza che gli viene attribuita. Perché? E perché l'importante sono le discipline sostanziali. Lei ha sempre detto che in Europa c'è stato un golpe. Ma mi dice esattamente quale golpe? Golpe, usiamo la parola in modo metamorforico, ovviamente. Certo, naturalmente. È certo che non c'è stato nessun generale, nessuna azione di forza, eccetera, eccetera. Anzi, sono convinto che tutte partite da due che sono grandi galantuomini. Lo erano e non avevano nessun interesse particolare. E chi erano? Due persone che, per le funzioni che esercitavano in quel momento, hanno esorbitato dal campo di attività che sarebbe stato loro proprio e hanno commesso degli errori. E chi sono queste due persone? E quello fondamentale è Weigel, il ministro tedesco del finanza. Perché? Cosa ha fatto Weigel? Ma lui certamente, naturalmente parliamo per ipotesi, ma su questo punto sarebbe molto opportuno un'inchiesta da parte del Parlamento europeo. E perché lui era probabilmente ossessionato dalla stabilità del marco e ha commesso un errore di base, perché il marco era stabile in quanto c'era un governo federale e c'era la banca centrale. Lui ha ritenuto che si dovesse sostituire il governo federale e la banca centrale con una norma rigida. Per garantire la stessa stabilità. Per garantire la stessa stabilità e soprattutto per tutelarsi nei confronti dei paesi che, secondo lui, secondo nelle sue previsioni, non sarebbero stati in grado di rispettare i vincoli. Cioè i paesi del sud dell'Europa, diciamo. Ma diciamo che la cosa riguardava in modo particolare l'Italia, sì. Dando per sospetti, naturalmente sì. Non abbiamo... Ecco, ma professor Guarino, Weigel, che cosa ha fatto che è diventato vincolante per tutti? Io penso, naturalmente dobbiamo andare per ipotesi, certo. Weigel sarebbe in grado di chiarire le cose come stanno. E lui probabilmente tra tutte le soluzioni preferiva quella che il trattato saltasse. Cioè quindi, il trattato di Maastricht. Cioè lui non voleva Maastricht. Lui voleva... continuare col marco. È visto che c'era stato Maastricht e si è detto come faccio allora a fare lo stesso? E allora voleva tutelarsi al massimo nei confronti dei paesi nei quali lui non aveva molta fiducia. E allora cosa ha fatto? L'Italia in questo quadro assumeva un ruolo importante, perché certamente era uno dei paesi per i quali sussistevano maggiori dubbi. E se non ci fosse stata l'Italia certamente non ci sarebbe stata la Francia, e senza l'Italia, senza la Francia saltava tutto. E allora che cosa ha fatto? È esercitato un'opera di persuasione direi molto dura, nei confronti di Ciampi e quindi nei confronti di tutti gli altri. Professor Guarino, ma che cosa ha fatto concretamente? E cosa ha fatto? Che mentre il trattato che era già in vigore, perché certo, il trattato era stato approvato nel 1992, aveva fatto in modo che si realizzassero condizioni di alta convergenza tra tutti gli stati, in modo che tra di loro ci fosse una concorrenza equa. Invece di tutto questo ha puntato sulla garanzia, cioè ha introdotto delle... E pare che l'abbia redatto questo testo del regolamento 1466 addirittura dal 1995. Cioè l'aveva già preparato? Lui l'ha scritto fin dal 1995. Ma questo regolamento sostituisce sostanzialmente gli accordi di Maastricht? Certo, perché per crescere, Maastricht attribuiva l'obiettivo della crescita, voleva la crescita, tutti i paesi che partecipavano erano cresciuti ad altissimo tasso di sviluppo nei decenni precedenti, quindi nessuno avrebbe sottoscritto un trattato per andare per bloccare, a, per bloccare la crescita. Quindi tutti pensavano di sottoscrivere un trattato che garantiva la crescita nella stabilità. Che garantiva esattamente la possibilità di una crescita, e la crescita era attribuita agli stati. Ci sembra molto semplice, ogni stato doveva avere una propria autonoma politica economica, significa tutti i campi dell'economia esclusa la moneta. E invece? E invece si è creduto di semplificare, di ottenere il risultato con una semplificazione al massimo, invece delle politiche economiche autonome di ciascuno Stato nei limiti che venivano stabilito, ha stabilito una regola di carattere generale. E la regola di carattere generale qual è? È quello che va sotto il nome di patto stabilità e crescita. Non è stato un patto di nessuno, è stato quello che è stato scritto, patto di stabilità e crescita. Ma non c'è il patto? Non c'è stato il patto mai. Perché il patto era quello precedente, era l'accordo di Maastricht. Certo, perché in realtà il patto per uno Stato esiste quando si stipula con tutte le regole previste dalla Costituzione un trattato e poi il trattato viene ratificato. E quindi, il professor Guarino, patto di stabilità, quello è il golpe. E che cosa consisteva? Diciamo, quello che diciamo golpe. E che cosa consisteva? Consisteva nel stabilire un principio inderogabile del bilancio in pareggio, o se non è in pareggio lo devi raggiungere in pareggio, lo devi raggiungere in medio termine. Il bilancio, se è inattivo, va bene, fa quello che vuoi. Sì. Ma se non è inattivo, tu devi averlo in pareggio nel medio termine. Ma non basta che stabilisca la regola generale del pareggio in medio termine. Significa anche che tu devi, comporta anche che tu devi seguire un percorso che ti dico io quale deve essere. E quindi da questo momento tu hai un dovere generale della parità ed un obbligo di raggiungere la parità nel con quel mezzo. Col mezzo che io ti ho indicato. E quel mezzo che lui ha indicato è un mezzo che non porta mai al pareggio. E non porta al pareggio per una ragione molto semplice, che se te fossi stato inattivo, allora tutto certo, sarebbe andato bene. Se tu avessi avuto già un avanzo primario strutturato, va bene, nel limite dell'avanzo primario fai quello che vuoi. Ma se sei in una situazione di non pareggio, cioè di passivo, allora non ti puoi indebitare, perché se tu ti indebiti nell'anno non sei più in pareggio. E quindi se tu non hai una posizione di pareggio o in avanzo, ma sei in una posizione di debito, allora non puoi indebitarti oltre. Professor Guarino, quindi applicando questo patto di stabilità di Weigel è infinita la negatività di questa situazione. Certo, perché in astratto tu potresti ancora indebitarti a patto di avere entro l'anno un ritorno tale da pagare il costo del debito e infatti fare un miglioramento. Che presuppone uno sviluppo superiore al 3% per poter avere i soldi per cominciare a pagare il debito. Questo vale per la proposizione italiana in particolare. Sì, parlo di noi. La situazione è questa. Il costo complessivo del debito, quanto ammonta per l'Italia? Ammonta per l'Italia l'ultimo anno, il 2013, ammonta al 5,5% credo. Ora 5,5% deve detrarre ovviamente l'avanzo primario. L'avanzo primario credo che per l'Italia sia intorno a 2,2, resta ancora 3,1. 3,1, quindi? E quindi tu dovresti avere un tasso di sviluppo pari a 3,1. Tasso di sviluppo pari a 3,1 per restare pari. Per restare pari. Per cominciare a pagare dovrebbe essere superiore. E questo si prosegue anche negli anni successivi. Guardate che tutte le previsioni... Siamo a meno o a più 0,2, 0,3. Continueremo anno per anno ad avere un debito superiore alla nostra capacità di sostenere. Ecco, professor Guarino, e quello che ha ottenuto Renzi venerdì non serve a niente allora? Io ritengo che questo sia il punto centrale, non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi. paesi. Io non parlo mai solo dell'Italia. Certo. Ritengo che il problema abbia valenza europea. Valenza europea. Tutti parlano del stare ai patti, ma io, in quanto responsabile di un paese, perché sono il primo ministro del paese, ho il diritto di chiedere quali patti. Perché se il patto è il Pax, il patto non è stato mai ratificato nel nostro paese. E poi l'unico patto che oggi esiste è il Trattato di Lisbona, che ha riconfermato quel che diceva Maastricht. Che poi e quindi ritorniamo lì, quello che noi facciamo, che è figlio di Weigel, non ha nessun reale potere vincolante. Io non lo porterei in questo modo negativo, io lo porterei in modo positivo. Io, in quanto responsabile di un paese, voglio che mi siano indicate qual è le norme del trattato e quali conseguenze dobbiamo dare. Ah, ecco, che cosa stiamo applicando? Che cosa voi in nome di quale accordo fatto? Cosa accordo fatto? E quindi se l'accordo è solo quello di Weigel, è poco perché è meno dell'accordo... È totalmente diverso, esatto. Non è che è meno, è totalmente, sì, è totalmente diverso. Diverso. Totalmente diverso. Senta... Perché questa è funzione della crescita, quella è funzione di un risultato del pareggio. Che se oggi non c'è, vuol dire che tu parti dalle premesse che io sono in debito, in una situazione di debito consolidata, che devo arrivare a pareggio. Non si capisce come si può fare. Certo, questo è il punto. Ecco, professor Guarino, quindi le conseguenze per l'Italia di quello che sta capitando sono nel tempo disastrose. Ma non solo per l'Italia, ma anche per gli altri paesi. Sì, ma adesso... Compresa la Germania, perché se non... Perché anche per la Germania? Perché innanzitutto la Germania ha una quota rilevante del commercio intereuropeo. E se gli stati... della zona euro e quella in generale dell'Unione Europea non crescono, allora crolla anche il mercato tedesco. E quindi nel medio periodo anche la Germania non trae vantaggio dalla stessa logica di Weigel. Ma non c'è dubbio, perché la Germania, che noi abbiamo sempre considerato, tutti considerano una delle grandi potenze economiche del mondo, figura al 10° posto degli stati con minore sviluppo nel mondo. Quindi è un decennio, non è che in un decennio non è poco. E poi continua ad andare a ritmi di sviluppo che sono quelli degli stati più arretrati. Professor Guarino, ma allora che cosa bisogna fare? Bisogna azzerare e ritornare allo spirito di Maastricht, fare una rivoluzione. Azzerare. Ritornare allo spirito di Maastricht? No, allo spirito, alla lettera di Maastricht. È troppo tardi. E allora oggi cosa si può fare? Oggi è troppo tardi perché ricordiamo tutti il caso di quella ragazza che è stata allevata in casa senza mai farla uscire di casa. Sì. E così, quelli erano 15 anni, noi siamo ormai 15 anni che abbiamo non applicato le norme. E allora cosa possiamo fare? Bisogna ripensare all'intero trattato. Ripensare all'intero trattato. Partendo dalle condizioni attuali e facendo in modo che l'Europa, che è una posizione stata dominante del mondo per millenni, possa riprendere la sua posizione. E questo è un compito quasi generazionale, in un certo senso, di chi non ha responsabilità rispetto al passato. È proprio così. Io credo che tutti quelli che hanno preso parte attiva all'introduzione di queste norme non coerenti con il trattato e tutti quelli che le hanno applicate o concorso ad applicarle in 15 anni, e ci sono quasi tutti quelli che sono ancora sulla scena, certo, dovrebbero avere il dovere e anche l'onore, la tutela e l'onore di tirarsi indietro. Quindi la vera rottamazione bisogna farla lì. Dovrebbero essere tutti rottamati. Tutti rottamati. Parola un po' dura, ma è la verità, perché quando cade il fascismo non si vuole al governo nessuno di quelli che avevano preso parte, sì, a quelle attività. E politiche. Quindi diciamo la Merkel dovrebbe accettare di farsi da parte lei per prima. Ma io le posizioni personali non voglio entrare, perché non è competenza, certo, mia, e non abbiamo tutti gli elementi. Certo. Ritengo che la Merkel, relativamente ad altri, sia in posizione meno... compromessa, perché la Merkel, se ricordo bene, è entrata nelle funzioni ufficiali nel 2005 e non essendo esperta, perché lei veniva da una cultura e formazione personale di cultura totalmente diversa, certo, e senza escludere il valore di quella precedente, ma certo, insomma non erano quelli dello Stato, sì, organizzato nuovo, e allora lei naturalmente ha bevuto quello che le hanno detto, eppure poi si è persuasa di dover svolgere quel compito. Professor Guarino, mi rifà l'elenco dei 5 che di sicuro devono rottamarsi? Ma quelli che oggi non sono rottamarsi sono le ultime formazioni politiche, e cioè in Italia da un lato c'è Renzi, sempre che si attenda a non farsi a non entrare nella macchina, sono i 5 Stelle, sono il movimento del quello greco, c'è il movimento francese, c'è il movimento inglese. Questi sono non tanto esenti, ma liberi di apprezzare le cose come stanno oggi. Di rifare l'Europa. Per fare l'Europa. Io credo che se pensiamo non tanto agli organismi quanto alle persone, agli individui, oggi forse sono in Italia sicuramente già la maggioranza assoluta. Ma, ripeto, non bisogna tanto guardare ai gruppi, alle persone. No, ma la possibilità di farlo. Ma alle persone che sono emerse nuove, sì, sono certamente la maggioranza assoluta. E come anche a livello europeo probabilmente sono... E quindi questa, sostanzialmente, per questa classe dirigente nuova è un'occasione irripetibile. Ma non c'è dubbio, perché io che ho vissuto il periodo del dopoguerra, si diceva sono inesperti, ma è meglio un esperto che ha grandi sentimenti di pulizia, intelligenza, desiderio di approfondire, passione per il paese, senso di responsabilità, che non uno che si è compromesso. In dopoguerra sono i giovani che hanno poi governato il paese per molti anni, erano tutti ragazzini. Erano ragazzini e hanno rifatto l'Italia. Hanno rifatto l'Italia, quindi io tra i due preferisco i giovani. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, mi sembra che il professor Guarino, 92 anni, sia il più rivoluzionario di tutti. Ha fatto un ritratto perfetto di quella che potrebbe essere la generazione Telemaco di cui ha parlato Renzi. Intanto ciò che conta è lo spirito, lo dico a tutti quelli che si sentono anziani per l'età, in realtà sono giovanissimi dentro, quindi quello che conta però... è la mente, e la mente del professor Guarino è lucida. Ripeto ancora quello che ho detto ieri, è uno dei pochi che si è letto i trattati, e questo è molto importante, perché senza diritto tu non puoi appendere una causa del genere, non puoi alla fare parete. Politica senza, esatto, avere una l'altra cosa che emerge è che lui propone una riscrittura completa, non un aggiustamento. Io penso che sia corretta come impostazione. Insomma, pensiamo a 20 anni fa. Sì. È uno scenario del mesozoico rispetto ad oggi. 20 anni fa non c'erano i social network, non c'era niente. Uno dice, vabbè, ma i social network incidono. I social network sono nuova economia, bene o male, piace o meno. La velocità. Poi l'interconnessione delle varie economie, lo spostamento di ricchezza a Oriente era cominciato, ma non era così massiccio. Questo per dire che comunque patto che non è neanche, secondo la tesi del professor Guarino, non è neanche quello che viene in base al quale si fanno le scelte, no? Perché certo, non è mai stato firmato. Sì. Non può essere, no, cioè questa è la sua tesi. Certo. No, ma è così. Allora, può essere quella che guida la nostra ma poi la non nostra è aggiornato. Vita. In più non aiuta. Scusa, non aiuta. Uso una metafora, ecco. E poi non voglio annoiare i nostri ascoltatori, e mi interessa sentire anche Pietrangelo. Quel patto là dovrebbe essere come il software del tuo computer, del tuo telefonino, ogni tanto si aggiorna, bravo. E quello va aggiornato, cioè riscritto. Il mondo di 20 anni fa non è quello di oggi, noi possiamo girarla come vogliamo, roba. Sì, da qualunque punto di vista la prendo. Eravamo americanocentrici e l'Europa credeva di essere il leader, oggi non è leader più l'Europa, la Cina sta per sorpassare gli Stati Uniti sono in difficoltà e guardano al Pacifico, e noi a che cosa stiamo attaccati? Ma soprattutto un patto che non risolve i problemi, perché non è uno strumento operativo, giustamente, perché non è di crescita, va aggiornato, non è di crescita e di stabilità, sai, la stabilità da poveri chi se ne frega, dicevi? C'ho tempo? Sì, allora, certo. Io credo che Guarino svolga un ruolo in Italia, quello che più di 10 anni fa ebbe Gianfranco Miglio, cioè di uno scienziato, bravo, un analista che riesce a dare alla politica delle indicazioni ben precise. Ieri tu in onda hai detto una frase che mi ha colpito e che ha una sostanza politica enorme, cioè quando hai detto Matteo Renzi dovrebbe passare mezza giornata con Guarino e farsi spiegare le cose. Io credo che Renzi non lo farà mai. Io spero che lo faccia invece. Ma avendo io le deve dare corpo alla generazione Telemaco. Sì. Corpo e anima. Però ricordiamoci che Telemaco, se non c'era Penelope, sarebbe stato mangiato dai proci. Ma magari c'ha Penelope vicino, non lo sappiamo. diciamo che non è molto convinto su no, non sono convinto perché già per esempio nella web tax su storie che abbiamo analizzato anche noi lungamente e sì, diffusamente sappiamo perfettamente che il suo nicchiare deriva da un atteggiamento di sudditanza nei confronti però di ieri, poteri, i poteri ieri, finanziari ieri però che aveva sono... un atteggiamento diverso sì. Guarda che ieri al capogruppo del PPL ha fatto una risposta di quelle sì, che sono vere, rimasti tutti di stucco. Mi ha sorpreso anche a me sì, con perché una ha forza, tirato una fuori la clava sì, e però, l'ha tirata in fino faccia... a quando non passerà mezza giornata con Guarino non ci crederò. Ah, beh, questo fino io anche penso non saranno scelte radicali e credo che la prossima immediata settimana della politica e dell'economia in Italia da giostrare, da giocare sulla realtà delle cose sarà quando qualcuno veramente si farà spiegare le cose e chiederà Conte ragione rispetto a quello che i nostri ascoltatori hanno sentito da Giuseppe Guarino. Abbiamo Massimo D'Ancona, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Io forse mi sono perso un passaggio, ma non, mi sembra allucinante che quello che dice il professor Guarino di Weigel a proposito di Weigel, sì. Weigel, cioè un personaggio che riesce a, come dire, a comandare su una cosa così importante. Non è un personaggio, era il ministro, Weigel, era il ministro del tesoro del... Era il signor Marco. Ecco, era il signor Marco, ma esattamente. Che, scusate, ma sembra che gli altri abbiano detto sì, va bene, facciamo come vuoi sì, tu. Più o meno, secondo la tesi del professor Guarino, più o meno è andata esattamente così. Dimmi, posso firmare, solo... sembra aver fatto qualcosa senza leggere un contratto. Scusi, cioè, bravo. Posso fare uno scenario dell'epoca? Lo scenario dell'epoca era quella di un concerto di valute in Europa. Sì. Non eravamo ancora nell'euro, no. Ma c'era un concerto di valute, diciamo, che più o meno erano tutte o quasi agganciate all'andamento del marco. Cioè il marco dominava in quel momento l'Europa. Ricordo a tutti che un solo fondo di investimento, quello di George Soros, in un attacco speculativo di un paio di settimane fece fare un bagno di sangue alla lira e costrinse la sterlina a uscire dal meccanismo dal serpente monetario. Sì. Era una situazione di fluttuazione delle monete enorme, per cui il marco aveva una posizione predominante. Dire... Sì. Ecco perché Weigel era fortissimo. Grazie. Allora, no, scusa, forse ti avevo interrotto mentre stavi finendo. No, tu dici non ci credo fino a quando Guarino non passa mezza giornata con Renzi. Voglio allora, dire che anche gli altri dovrebbero raccogliere questa idea. Io ricordo che il professor Guarino ha 92 anni e la sua lucidità è veramente qualcosa di sbalorditivo. Non viene fatta quella specie scienziata nostri politici. Ecco, qui ci chiedono, nessuno si chiede perché la lucidissima analisi del professor Guarino non viene fatta da quella specie di scienziati e nostri politici. La risposta la possono dare solo loro, speriamo sempre in questa mezza giornata passata da Renzi con Guarino. E intanto noi andiamo in pubblicità. Mix 24. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai, per dirti ancora coi baci miei, che cosa sei per me. Angelo, eccomi. Ha incontrato la Merkel in metropolitana stamattina. Meglio, il sangue è lo stesso, però viene dalla Foresta Nera lui. E più che la metropolitana era un Holzwege, erano i sentieri interrotti. Era un ragazzo immerso nella lettura di Zion Zeit, Essere e Tempo. E quindi ho intravisto in quel ragazzo che si preparava per l'esame orale oggi gli occhi vispi del pastore dell'essere. Sembrava proprio trasfigurato nell'immagine di Martin Heidegger ed era alle prese proprio su questa questione. Il tempo, un'ora sola, per voler che cosa? Per voler essere. quindi per voler ritornare, per voler riprendere. Ed era come, hai presente quando il tempo in un'ora sola è tutto risolto nel non saper scordare mai, e il tempo è tutto attesa, mi ha detto il ragazzo studiando Heidegger, e l'essere è solo quell'ora che si può trascorrere con lei. Per dirti ancora, coi baci. Poi mi dai il nome. Martin Heidegger, Zion Zeit, edizione no. Longanesi, traduzione di Pietro Chiodi. No, non è chiaro, il nome di lei. Sembra Ellade. Ellade. Beh, sì. Buonanotte. Andiamo, torniamo nel mondo con le bolle di Mario Sechi. Vai. Festeggiamo il 4 luglio tra un po', eh? E allora, vabbè, gli americani si preparano a questo 4 luglio un po' così, perché la benzina, a causa della guerra civile in Iraq, il 4 luglio è la più cara degli ultimi 8 anni. Insomma, sarà a praticamente $3.67 al gallone, un gallone è circa 3,79 litri per essere chiari. Negli Stati Uniti circa 35 milioni di persone si muoveranno in questo weekend per circa 50 km mediamente ognuno, quindi sai, alla pompa di benzina tutti fanno i conti come va, come non e va, quindi? E quindi l'instabilità in Iraq gli sta creando un po' di problemi sul weekend. Beh, un po' sì, sul weekend, nel medio più lungo periodo, perché che comunque loro sono abituati ad avere la benzina a prezzi bassissimi, certo, rispetto a noi c'è una differenza del 250%, sì, sì, per essere chiari. E naturalmente tutto questo ci riporta a che cosa? Alla situazione in Iraq, che è di totale stallo. Segnaliamo che c'è un po' di segnali di reazione, arrivano dalle brigate sciite, soprattutto grazie all'impegno della Russia e dell'Iran. Si sta combattendo a Samarra e a Tikrit, zona intorno a Baghdad ancora. I jet russi hanno cominciato la loro azione sul terreno decollando dall'aeroporto di Baghdad, per cui alla fine abbiamo cominciato con l'America, ma caro Giovanni, ora e sempre è... Mi spiace. Vabbè, dai. Mi eravate illusi che io fossi tornato a casa, invece no, sono ancora esule a Mosca. Vabbè, non lo so, però... Guarda, ti accontento. Sai dove andiamo? Dove? A Wall Street. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Beh, allora, era il nostro amico, era Gordon Gekko. E andiamo a Wall Street perché c'è una bella storia che riguarda il mondo della finanza, ma anche quello della medicina e della privacy, perché Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, ha rivelato ai suoi azionisti di essere malato di cancro alla gola. È stato preso in tempo, diagnosticato in tempo, è curabile, è pronto a fare la terapia e a lavorare contemporaneamente. Si è aperto un dibattito, come giusto, in fondo è una cosa molto importante, sui limiti dell'informazione, la salute, la privacy. Warren Buffett, il guru di Wall Street, l'uomo che ha guadagnato di più, il re Mida degli investimenti, esatto, ha detto: ha fatto bene, perché doveva informare i suoi azionisti. Si tratta del numero uno dell'azienda, della guida. Beh, è un bel tema, effettivamente. Sì, tieni presente, Buffett fu un precursore, perché in una lettera agli azionisti disse di essere malato di cancro anche lui. Voi cosa ne pensate? Giusto o no, sbagliato? Penso che sia giusto. Che tu? È necessario. Tu, Pietrangelo? Io penso che certi argomenti abbiano necessità di pudore. E il fatto stesso che fino in Italia ne stiamo parlando è segno che deve essere veicolato secondo logiche che saranno purtroppo di mercato. Di mercato. Veicolato è mercato, quota rosa. Quota rosa. Cappello, ma lei ha incontrato Putin, immagino? No, non ancora. Spero di incontrarlo più presto. Però sappiamo tutti, perché lo leggiamo dai giornali, che è un grande appassionato di sport. Vi segue almeno da lontano? Sono sicuro, sono certo che Putin segue tutto quello che riguarda la Russia, tutto quello che può essere importante come immagine della Russia, come risultati sportivi e quindi risultati d'immagine. Ma secondo lei chi ci capisce di più di calcio, Putin o Berlusconi? Putin, so che è molto bravo. bravo e capisce di judo, visto che ha preso un attore italiano gamba che lo segue anche da vicino. Per quanto riguarda il calcio, con Berlusconi ci si poteva parlare. Sì. Vince Berlusconi allora. Insomma, avevi scelto l'intervista giusta, Sara? A quanto pare, Per adesso, Capello, che come tutti quelli con un vero caratteraccio mi sta molto simpatico, è stato convocato dalla Duma. Guarda che io non mi riferivo assolutamente a te. Vai. È stato convocato dalla Duma per spiegare l'eliminazione dai mondiali, ma soprattutto vogliono sapere quali progetti ha per la nazionale russa, visto che il suo contratto dura fino al 2018, cioè i mondiali proprio in Russia. Pietrangelo, appunto, Pietrangelo, una domanda: Capello deve andare alla Duma oppure con la scusa di una vacanza lascia la Russia? No, deve andare alla Duma. Probabilmente gli finirà come Shamil il Santo, il leone del Dagestan, quando venne fatto prigioniero e condotto davanti allo zar. Beh, innanzitutto lo liberarono delle catene, gli riconsegnarono il pugnale affinché l'incontro fosse tra pari. E poi? E poi andò a Medina, in esilio, a pregare, e lì viene riverito e ricordato nella memoria della Umma. E andiamo! Aiuto! Aiuto! Salamini! Da Silvio Pellico allo Spazzolino. E uno si chiede, è un libro no? Allora, oggi su Repubblica Adriano Sofri scrive un pezzo molto bello, molto toccante, perché riferisce e racconta di tutta quella carne che è reclusa in carcere, e quella carne che ogni volta, quando bussa la forza pubblica, si pone sempre questa domanda: portare il libro o lo spazzolino? Ci sono immense biblioteche nelle carceri fatte di libri dalle copertine strappate, perché se la giustizia non è dike ma polemos, quindi l'odiare chi è rinchiuso in carcere, il mettere a pane e acqua adesso è diventato il lasciare il detenuto in apnea senza i libri. La questione nasce da un episodio recente, che è quella della detenzione di Marcello Dell'Utri. Sì. E Adriano Sofri, in questo pezzo, ricorda anche due celebri libri che sono nati nelle carceri. Oltre a quello di Silvio Pellico, c'è il Don Chisciotte, oppure il Milione di Marco Polo. Io mi sono ricordato del Candore delle Cornacchie, un libro scritto da Totò Cuffaro in carcere. E siccome la questione poi in Italia sconfina sempre in una tifoseria tra chi odia e chi non vuole odiare, tra chi invece vuole un moto di pietas, la recente polemica sul Corriere della Sera, che ha visto il CDR indignato per la pubblicazione di una pagina dove gli amici davano la solidarietà, visto e considerato che la solidarietà non è ancora un reato, si aggiunge una dichiarazione fulminante di Paolo Isotta, firma del Corriere della Sera, che ha detto, ha dichiarato: rivendico la libertà di essere amico di Marcello Dell'Utri, di ritenerlo un perseguitato e di dichiararlo, piccola dedica, farfallon. Che è la canzone di chi evade. Papillon era, comunque. No, è farfallon di Franco Franchi. Lo so. Dopo il giornale radio, Marina Milone ci racconta una storia di Elisabetta Castano, un'inchiesta realizzata a Medjugorje sul fenomeno, l'incredibile fenomeno religioso di Medjugorje. Sentiamo un piccolo brano. A noi abbiamo chiesto, tu ti sei, perché noi? Perché eravamo stessi come tutti gli altri bambini in paese, niente più dell'altri. E Madonna ha detto solo: perché ho bisogno di voi come siete. La Madonna ci ha affidato segreti su quale non possiamo dire ancora niente, sono ancora segreti. Quando lei ti guarda, tu hai sensazione che ti abbraccia, che ti bacia, sensazione di amore, di protezione, sensazione che sei con una mamma. Ma proprio una persona viva come a noi. Mix 24. Canzoniere. alla prima e certo molto provvisoria biografia dell'uomo di letto, così terribilmente provato, innalzato e abbattuto dal destino, alla vita del geniale musicista, io premetto alcune parole su me stesso e sulle mie condizioni. Dichiaro in modo assoluto che non lo faccio per il desiderio di mettere avanti la mia persona. 800 24 00 24, numero verde, sms 349-238-6666. C'è una bolla ancora, Mario? Sì, prima della bolla, solo una cosa veloce. Sì. Tal Filippo da Fiume su Twitter dice: stamattina Mix 24, Minoli buttafuoco e Secchi si sono accorti dell'esistenza del professor Guarino. Meglio tardi che mai? Vedremo. Abbiamo dato una risposta ufficiale, che è la seguente. Siamo in onda dal 30 settembre del 2013. L'abbiamo intervistato o riproposto 6 volte fino ad oggi. La prima fu il 5 novembre del 2013. Vabbè, non è mica obbligato sentirci sempre. Appunto, ma momento, allora neanche a scrivere cose sbagliate. Bolla! Vai! Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Tutti i cavi, tutte le frequenze, più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Allora... grande Orwell. Qua no, questo è un grande Gene Hackman con Will Smith, film straordinario. Nemico pubblico, l'avrò visto 5-6 volte e fa il paio con Caccia Ottobre Rosso. Parliamo di NSA? Facciamo una cosa un po' al contrario. Sono usciti dei dati di un think tank autonomo che ha valutato il lavoro dell'NSA e insomma niente male. È vero, tiene d'occhio 250 milioni di comunicazioni via internet all'anno, intercetta in 193 paesi, ha sotto controllo 90.000 soggetti all'estero e nonostante il clamore delle rivelazioni di Snowden, signori, è tutto legale. Sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance. Vedi che è importante leggere le carte. Certo, bisogna leggerle perché è tutto legale. Grazie, e ti dirò Guarino. Di più, questo studio indipendente appena pubblicato certifica che in 20 casi concreti plot terroristici sono stati diciamo anticipati e per fortuna neutralizzati. In 30 casi si è individuati il terrorista e sono state arrestate 100 persone. Se non l'avessero fatto, qualcuno sarebbe morto. Ah. E oggi avremmo detto: c'è un buco nell'intelligence. Salamino! Pierpappa è fatta! Aveva ragione Flavio Briatore quando te l'ha detto, Giovanni. L'uomo forte di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. E Pierpappa è fatta perché non proprio Silvio, ma Pier Silvio ha dato indicazioni sul vero Pier Leader. Ed è Pier Matteo che con la sua pierrottamazione può assicurare la pierriforma e la pierripresa. La dichiarazione di Pier Silvio apre dunque nuovi scenari nell'area del Pier Centrodestra, dove fino a ieri ai nostri microfoni davamo la certa ascesa della Pier fidanzata del Pier papà di Pier Silvio. Ai Pier posteri l'ardua Pier sentenza, la Pier pappa è comunque fatta. Alfonso Signorini lo aveva già detto. Matteo Renzi parla alla Pier pancia, alla pancia del paese. Un lapsus, è tutto uno scappare di Pier, ma tutto deriva da quella meravigliosa fondazione, da quel grund che fu Drive-In, ed ecco un Pier Silvio meraviglioso, ascoltate. Uè, testa di casua! Dimostra di essere un cucador troppo giusto. Vai a piovrare con le due belle mongolfiere. Uè, signor Inzia, la posso invitare per una pizza alla Stragrande stasera? Stragrande stasera? Te la sparo subito io la pizza! Apri binocoli, missile. Vabbè, vabbè. Professore, professore, sempre televisione, professore, professor Simonelli, buongiorno. Shirley, Ozil in area, Ozil controlla male, serve l'assist al compagno, bel cavallo, si salva, Ozil la chiude, Mesut Ozil, la Germania, va a Rio de Janeiro, va al Maracanã. Uno scherzo della Tardelli, professore, no. Avete concordato? No, l'abbiamo concordato perché è la Germania. Tra l'altro forse c'entra anche col canzoniere, però poi questo ne parliamo dopo. La Germania, perché si parla molto di Germania, si parla di Germania anche tra Minoli, Feltri e tutta la compagnia che ieri sera ha interpretato il discorso di Renzi, ma il canone forse era sulla F, una rete di cui abbiamo parlato poco quest'anno. Mm. E ieri sera la F ha mandato in onda un film bellissimo che si chiama Almania. È un film turco di una regista turca, Yasmin Semerdeli, che è uscito anche nelle sale un paio d'anni fa, non con grande successo, ma un film estremamente significativo perché racconta la storia dell'integrazione degli emigranti turchi in Germania, e tra questi c'è anche la famiglia di Mesut Özil, che ha segnato il gol che ha portato la Germania a Rio de Janeiro. È un film molto interessante, è la storia di un contadino turco che negli anni 60 arriva. Vabbè, non me la racconti tutta però, professore, è la storia. Sì, è il milionesimo immigrato in Germania. La Germania degli anni 60 del boom economico. E allora abbiamo Francesco da Bergamo che forse ci vuol dire qualcosa. Francesco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, allora, canzoniere, ha indovinato? Credo sia il dottor Faustus di Thomas Mann. Giusto! Giusto! Posso approfittare un attimo a proposito di Germania? Sì. Volevo dare una notizia. Dalla. Non è possibile. Perché la lingua non è mai innocente. È appena nata Greta Cutarelli. Mi è arrivata adesso la notizia dal suo papà. Fantastico. Bene. Siamo il fiocco ormai rosa. Il fiocco rosa. Anche. Guarda, è una cosa incredibile. Tra lui e la Tardelli ci sono tonnellate di Nutella, di che miele, è professore. Allora via la Nutella, però sì. avete capito che avevo indovinato anch'io. Sì, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito, non volevamo farglielo dire. Allora, ieri sera però è successa un'altra cosa, e qui dobbiamo essere un po' scettici, perché Rai 1 ha fatto una cosa, come dire, un po' stravagante. Fatto intervistare Renzi da Vespa per far concorrenza alla 7, certo, dove si parlava della stessa cosa in altri termini e con altri ospiti. Ha mandato in onda un film che rievoca, film inedito in Italia, che rievoca la storia della FIFA, della Federazione Internazionale di Calcio. Sì, l'ho visto. Solo che secondo me ha sbagliato completamente i tempi, perché il film, a parte insomma alcuni difetti, ma questo nessuno è perfetto. Il problema vero è quello del palinsesto. Questo film sarebbe andato benissimo una quindicina di giorni fa, all'inizio del mondiale, per creare l'attesa, per sacralizzare anche un po' l'attesa di questo evento. Adesso, dopo anche le delusioni che abbiamo vissuto, forse era un po' inutile. Era una serata un po' così, insomma, come tutto il clima degli italiani nei confronti del mondiale. Ecco, Enrico dalla Grecia ci chiede se manderete delle repliche di Mixer durante l'estate. Per tutto luglio ci sarà l'ora della storia, non ci sarà la prima ora dell'attualità. Ci riposiamo un pochino pure noi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Domani avremo ancora l'ultima giornata, e intanto pubblicità.